Bentornati e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici a Jetlag, la rubrica più molesta del palinsesto di Radio Live, perché va a cercare loro malgrado impressioni e sensazioni a caldo subito dopo le performance. Allora io andrei immediatamente a cercare qualche persona che vuole. Qualche persona, ne vedo due qua che sono persone, senza dubbio. Il braccio sinistro. Salve, buonasera. Salve, buonasera. Benvenuta ai microfoni di Radio Live. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, attenzione. Sì, beh, ha alzato la mano. Allora, noi siamo Silvio e Giovanni, con chi abbiamo il piacere di parlare? Ciao Silvio e Giovanni, sono Filomena. Ciao Filomena. Ciao. Tu da dove vieni? Da qui. Da sei di Pietra Pertosa e vivi a Pietra Pertosa? Sì, vivo a Pietra Pertosa attualmente. E che fai tipo nella vita? Che faccio? È pretenzioso dirlo ad alta voce così, però faccio l'artista anch'io in qualche modo. Faccio arte di strada, un po' con un piede del mondo del circo, e dall'altra parte faccio la guida escursionistica. Non c'è niente di male, mi sembra un modo più che onesto per guadagnarsi da vivere, considerando la situazione per attuale nel mondo. Posto nel mondo, sì. Quindi Filomena, tu diciamo sei di stanza qui, hai vissuto fuori a lungo, sì, sei tornata? Ho vissuto fuori 8 anni a Firenze, sono tornata 3 anni fa più o meno. E penso di voler rimanere qui. Che sai, in questi giorni ci siamo confrontati con molte persone che vivono nelle varie comunità attraversate dal festival, e spesso serpeggia un po' nei discorsi questo problema, questa crisi, diciamo, dello spopolamento, no? Soprattutto in relazione ai giovani, alle opportunità lavorative per i giovani, eccetera. Ma non sei la prima persona che ci capita di incontrare che è tornata o desidera ritornare in qualche modo. Quindi tu ti immagini una vita in qualche secondo modo? Secondo me è il futuro, cioè il futuro sostenibile di cui si parla è quello, che magari chi sente questa necessità deve iniziare a defilarsi dai grandi centri per trovare il suo spazio nel mondo comunque. E a proposito della performance di stasera di Paola Bianchi, impressioni, sensazioni? Qualcosa? Allora, io mi prendo sempre un po' di tempo prima di commentare le cose come che vedo, perché le devo metabolizzare, però a caldo ti posso dire che a un certo punto mi sono chiesta: sono nella sua testa o sono nella mia testa? Questo forse potremmo dirglielo a Paola, chissà, certo. Magari è una domanda che le fa piacere, ma intanto ringraziamo Filomena e andiamo a molestare un altro spettatore. Ciao, noi siamo Silvio e Giovanni, con chi abbiamo il piacere di ospitare in questo momento. Ciao ragazzi, sono Jessica. Ciao Jessica, ciao, benvenuta a Radio Live. Grazie. Sei anche tu di Pietra Pertosa? Sì, sono di Pietra Pertosa anch'io. E vivi qui? Sì, da circa un mese sono ritornata anch'io. Quindi freschissima di ritorno proprio. Di ragazze e ragazze che emigrano e ritornano. Sì, perché questo posto praticamente è magico. Cioè, hai bisogno comunque di uscire per vedere fuori, quindi riempire il tuo bagaglio, però quello che ti dà è quasi introvabile. E quindi gira che ti rigira, è molto difficile staccarsi, perché nel nulla c'è tutto. E in cosa consiste, se riuscissi mai a descriverla, questa sua magia? E cosa ti ha spinto a ritornare? L'essenza, l'aria, la verità, la nostra essenza, il silenzio che ci riconnette fortemente a noi stessi. Nel caos non c'è niente, c'è solo gente che scappa da se stessa, scappa da tutti, da prima di tutto da se stessi, e poi crea, perché lo crea un mondo, il proprio mondo, pieno di caos, e aggiunge, continua ad aggiungere. Parli di un'identità in senso quasi spirituale, mi sembra di capire. Assolutamente sì, e quando aggiungi arriva un certo punto che capisci che non ti basta mai, quindi il trucco sta nel togliere per arrivare a sé e ricostruire tutto da sé, e questo lo puoi fare solo alle radici, perché non bisogna scappare, bisogna viaggiare, capito? Cioè, costruire, non scappare. E senti Jessica, tu invece hai qualche sensazione, qualche impressione a caldo dallo spettacolo di stasera? Allora, come ha detto anche la mia amica, comunque nella mia testa si sta elaborando tutto. Stanno elaborando comunque tutte le immagini, però sicuramente è stato un viaggio introspettivo. Dentro di me ho sentito tante emozioni e tante sensazioni forti. Cioè, nei suoi movimenti leggeri, maestosi, anche nei suoi dettagli delle dita che strisciavano leggermente al pavimento, cioè riusciva veramente a farmi venire i brividi. Quindi proprio è stato un tuffo tra il mio mondo e il suo mondo, due mondi che si uniscono. Ringraziamo Jessica e calorosamente, grazie mille. Due testimonianze preziose, perché di due persone che hanno deciso proprio di ritornare qui, no? Una cosa di cui abbiamo parlato spesso in questi giorni. Andiamo a vedere se ci imbattiamo in qualche altra presenza da importunare con le nostre domande. E io, caro Giovanni, mi era sembrato di vedere qualcosa. Eccolo qua, bentornato a Domenico ai microfoni di Radio Live per la seconda volta nella stessa giornata. Domenico, tu eri allo spettacolo ad Accettura e poi ci hai seguito fino a qui. Cosa ti ha spinto a seguire il festival, a vedere un'altra performance? Niente, l'emozione delle vostre organizzazioni, intanto perché accompagnando anche l'artista che è stata lì ad Accettura, perché è stata un'esibizionista abbastanza, diciamo, brava in tutto. Non è che anche questa di qui, Paola, è stata un'artista lo stesso, bravissima in quel, però una in un modo, una in un altro, in base ai cosi che sono stati registrati da loro stessi, e poi hanno fatto la valutazione dei, diciamo, di come muoversi nei loro modi. E quale ti è piaciuta di più, Domenico? Dai. Ce n'è una preferenza, no, o uguale? No, è uguale, va bene. Quello che mi è piaciuto un pareggio, tutto. Vediamo un pareggio. 1-1, pareggio, X. Facciamo il pareggio. A parte che qui io a Pietra Pertosa ci sono quasi nato, conosco tutti, quindi non è che, ecco perché sono venuto tranquillo a far conoscere anche diciamo a Lara, diciamo, il paese, per farglielo vedere. Quindi hai una doppia cittadinanza, te possiamo dire, sei un po' accetturese, un po' Pietra Pertosa. Sì. Sì, però... i paesi limitrofi qui, quindi ci conosciamo quasi tutti, non quindi è che diciamo c'è... che tra Accettura e Pietra Pertosa c'è una buona amicizia. Sì, una grandissima amicizia e una buona ospitalità da parte di tutti e due i paesi. Diciamo che è il bosco ad unirli. Sì, è perché siamo convini, quindi loro vengono da noi, noi veniamo da loro, quindi non c'è problema di... Siamo in ottima collaborazione in tutto e per tutto. Bene, quindi grazie anche a questo festival, a questa organizzazione. C'è stato un motivo in più, diciamo, continuare la collaborazione. Grazie alla sindaca pure che ha organizzato questo evento, come abbiamo organizzato noi ad Accettura. Quindi è stato un ottimo evento, abbastanza emozionante pure. Sindaca che ecco è comparsa proprio alla nostra destra, materializzatasi quasi per magia appena la si chiama. Allora. Eccola. Abbiamo già, insomma, sentito, chiaramente anche i nostri radioascoltatori hanno sentito tutto quello che ci ha detto durante l'intervista e dopo anche la performance. Ma sai che abbiamo appena conosciuto due ragazze che sono tornate a vivere a Pietra Pertosa? Una da un mese e una da pochi anni, danno intenzione di restarci, sembrerebbe. Quindi è possibile. Sì, e sono queste, diciamo, le belle... testimonianze che consentono anche a noi amministratori in primis, ci danno la carica, perché vuol dire che il lavoro che stiamo portando avanti e stiamo facendo, diciamo, porta i propri frutti, perché noi vogliamo che i nostri giovani trovano un futuro qui nei nostri piccoli borghi, e quindi dobbiamo trasmettere loro l'amore e la passione per queste nostre comunità, dobbiamo fare in modo che loro trovino l'interesse, quindi che capiscano che il futuro può essere anche nei piccoli borghi, e quindi queste sono testimonianze preziose. Una delle due ragazze ci ha detto alla domanda, ma cos'è che ti ha spinto realmente a tornare? E lei ha detto l'identità del posto, che è il silenzio, è l'essenza. Perché secondo lei, se uno aggiunge troppo, non trova niente. Se uno toglie, arriva all'essenza di ciò che è. Che ne pensa lei di questa affermazione? Sì, io, se non sbaglio, anche nella mia intervista avevo detto che il giovane che vuole andare via, è giusto che vada via, è giusto che faccia un'esperienza fuori, che cresca, che vede un'altra realtà e poi torna qui consapevole e magari che ha capito e quindi che ha acquisito consapevolezza del vero valore che poi abbiamo nei nostri borghi, che poi in primis è la nostra identità. E quindi magari un ritorno a casa più consapevole, ed è questo che poi può fare, può portare sviluppo e può far restare i giovani qua, perché non li tratteniamo con la forza, ma tornano da soli e ci credono, e quindi sono quelli che poi si impegnano. E questo, su questo concetto di libertà, che io trovo molto importante e molto legato a doppio filo a quello di coraggio, di cui oggi varie volte abbiamo parlato, no? Credo che sia il modo ideale per chiudere questa nostra rubrica Jet Lag, che forse ha un'altra edizione domani, oppure questa era l'ultima. Questa era l'ultima. E allora, signori e signori, la rubrica più molesta di Radio Live vi saluta per questa edizione, ovviamente.